si è presa questa sinusite, e cazzo io male, che non ero di sinusite, eppure secondo come va il tempo è un macello. E questo è tutto quello che ti è toccato fare, comprare la, come si chiama, la macchinetta dell'aerosol, i medicinali e tutto quel cortisone che lo gonfia, è più facile, i peli, occhio al cortisone che non è una cosa tanto per la quale. Ero contrario, io non stavi appuntando qua, ero contrario, però con il cortisone adesso sei qui. Ecco, però il cortisone stesso qualche volta l'altra pianeta e il cortisone non sto alternando, ma sarei capito sempre proprio per questo motivo che mi stai dicendo, però anche lì deve capire quando le dico le cose che c'è freddo, a parte di guardato, capito, perché ero indaffarato ieri per dentro, ero fuori con la bucca, ha preso un pallone al comune di Florina, per poter raccontare i ragazzi di quella della scuola media, devono fare un'escursione di Nell'Agro tra Malaria e Itiri, sono messo che il comune nostro li ha autorizzati, sono andato a fare quelle escursioni lì, hanno detto che ho insegnato sempre. E tu ero preoccupato di questa roba, non stavo neanche accendendo che ci avevo mille cose in testa, infatti erano staccati anche da avere l'anteno, dopo che ti arrivi qualche tempo all'improvviso che non ci stava, io mi stacco sempre in piedi, la... e niente, stasera così, siccome c'era mia moglie da mamma, infatti ne ho voluto la cosa della mamma, e c'era stamattina, niente, ero così, ma c'era Antonio, siamo stati un po' poi, e anche uno, Antonio, stavo parlando, ho sentito Antonio da questo, di cantare di coro, la figlia e di quello di Cantavisetta, siamo in Italia, abbiamo fatto un paio di passaggi e niente, poi stavo chiacchierando del più del meno. Mi ha fatto piacere scambiare due chiacchiere stasera. alle prossime giù, se capita c'è il tuo numero, adesso non so più quelle che ho speso la stata, però se capita che ci capito ti faccio una pasta così ci muoviamo anche in verticale, riprendi la calina. Da 2 anni non si è fatto più sentire, questo e quest'altro, detto, ma chissà che fine ha fatto, ho detto, tra me e me. Niente, Natale, questa fine qui che ho, guarda, trovato, mi ha trovato questi giorni che ero, ma è più una preoccupazione, che pensando dovrò ricorrere a qualche appuntamento con lo sorino, con queste belle cose, e niente, perché ho detto, pensavo, ma senza che ne sia, perché io non so, per la notte, non faccio un fine di altri, ero, tutti che ci passavo 2 o 3 ore ieri. Sì, lo credo, poi quando uno deve andare a lavorare, domani è crepato. Tu gli devi raccomandare a quel ragazzo di stare riservato, quando fa molto tempo, a uscire a piedi, non in moto. E me lo coperto pure, se soffri di questa cosa qui. Il cazzo di Aruguido non faceva dormire a nessuno. Poverino, ui. Ma ti stavo dicendo, qua di quale di certo non stavi parlando poco fa, Natali. Allora, siccome della gente aveva necessità di queste licenze, di queste, sia quella per la pesca che quella per il CWL, quella per il WHF Marino, c'erano esigenze di questa domanda e non riuscivano a trovarle. Allora, sono andato su internet e io. Infatti quella della pesca per esempio la devo dare a quello del negozio degli animali, no? E quello è vicino a Giulio. Io lo stesso interessava a me ed è per quello che l'ho cercata. E l'ho dato anche a Parchetto, l'ho dato anche quella per il CWL, gli ho dato stamattina. Vabbè, per fare la festa con la tipologia, la stagione ho sempre cercato di prendermela. E se vuoi vengo e te la porto, già c'è scritto tutta una domanda. Io me la devo fare perché andare così di trovo non va bene, non sai che ti trovino, perché ti sequestrano tutta l'attrezzatura e ti mettono una multa, non è indifferente. E non sai a tu cosa ti è capitato quando ero piccolo. Che dopo aveva la licenza di pesca con tutti gli attrezzi da fare la massima, non so che diciamo, conosceva, gli hanno dato questa massima, la massima licenza, e poi mi andava a pescare al fiume, vicino alla ferrovia, e un giorno bussava il carabinieri di oggi a casa, e apriamo il corso di conosceva, me l'aveva fatto accomodare, bravo, non mai pensando, ah, certo, signor Natale, le potevi dire una cosa, lei c'ha una licenza, ha detto, così e cosa, sì, ha detto, ma subito è andato, la portata gliel'ha fatta vedere, con tanto di fondo, il corso, il cedino, ha detto, gliela devo ritirare, e bravo, ma è vero, non ha fatto nulla, no, questa licenza, no, lì non la può avere, perché è una licenza per pescatori di professione, ti ha detto, di un funzionario statale delle ferrovie dello Stato e se l'ha ritirata, è stato, mi ha detto, mi ha trovato, poesia, da quando ho la licenza, ha detto, ma hai pescato tranquilla, prima ho detto senza licenza, ha detto pescato, quello dici, ha detto pure. Tanto voi non te ne ho già cazzo, non c'è problema, no, ero anche preoccupato, hai capito, non devo più sentito, ma per volte non è che non fanno la cercevo, ma per volte non c'era, se c'era Gianni, con Pierpaolo, non è stato perché l'ho preso, ero preso un po', anche, forse, non è perché era da lì, fare riuscire a fare addormentare a lui, hai capito, per non voglio che sia il baracchino che disturbi il sopra e capito perché ero coricato le altre notti, è passata questa roba che è andata lì, non ho preso più soldi, quindi non accedevo neanche l'apparato più. E io me ne stavo andando a letto presto lo stesso perché non stavo bene in questi giorni, allora me ne stavo andando presto a letto, quindi non avevo voglia e non ne accendevo neanche io, entravo qualche minuto e poi me ne andavo, capito? Se io qualche volta mi mettevo le cuffie e mi stavo ascoltando, e come si chiamano questi stessi 40 e niente, però poi hai capito meno io, però, ma quando sei altri pensieri a fare che la rete non è libera, hai capito? Allora diventa una cosa noiosa. Già lo so, quando uno ha altri pensieri per la testa, già lo so com'è. Figurati, sono io. Certo, questo ragazzo si deve riservare un po', perché se soffre di questa sinusite, sta tranquillo che il freddo gli fa che la mano di Dio a riacutizzargliela. Lui se gli avrebbe passato la bionda a me, la macchinetta di aerosol, il cortisone, portagli una bionda. Gli allievi, lui, non so che lo dovevano fare anche io, e poi mi stavo anzi mettendo sotto pressione per il puma, alto il puma, altro perché quella roba, altro, non lo puoi guidare, lo so che lo sai guidare, però non vediamo un puma con passeggeri, ho detto, per sapere, hai capito, e poi mi stavo facendo questi anni della... capito, perché Angelo mi ha chiamato, ha detto la regione, ha detto buongiorno, siete che non può, che abbia un, vogliono un curriculum in poche parole, perché lui manda la regione, vogliono un curriculum, a quanto mi ha fatto capire di come si chiama, e gli ho detto, se non c'è questa roba, non posso, gli ho detto, dai, stare, e gli ho detto, che era colpi di Natalina, lui ha accompagnato volentieri la sera, tanto iniziavano tardi a fare il corso, ma lui lo poi va a portare con lei, non è abbastanza, e c'è il foro. E chi? Ottavio? E quindi c'è poca cosa di lui, non le posso che dovrebbe avere, non lo so, lo so che il fumo lo possa guidare, però se non c'è il fumo è inutile. Poi, come mi stava dicendo Angelo, che guida questi due, e poi ho anche, come si chiama, un ricordo di esperienza, mi ha parlato del buon giorno. Io adesso sono interessato, ma sta lì, perché in realtà la tiro tutto il mese di giugno, sono la scuola mattina, ma niente, non so neanche se ci può procedere. Però, con quello ero un specialista, come faccio adesso a cercarti un po', se ci sono io, chi sia, a metterti in mano il fumo, se non c'è il no, cioè se questo ore e mezzo ti mettono quasi 1.000 euro di multa se ti trovano senza 5G, io lo so, ma lo sai che non ne scherzano su quelle cose. E perché inizia poi a farmi dei, come si chiama, degli sforzi che mi fa saltare i nervi, che io lo so guidare perché il dottore mi ha abbassato, quindi ha abbassato là, il tuo infumato l'hai guidato per fare quei colli dell'esame, non l'hai guidato, proprio l'ho guidato io, a Sistino, Portoso, i turisti e i colli stretti, e già l'ha visto perché io l'ho portato anche l'anno scorso, come si piena il posto, ma sta lì, che se non sei attento si scompie, perché è pieno di... hai capito tutte queste belle cose e niente, sono che abbassato non fare il corso mi consigli tanto dei candidati e non le fanno, però non è neanche una cosa giusta da salire perché uno c'ha la patente e non può usare la patente perché ci manca questa roba e perché è costata in queste patenti da salire un sacco di soldi e il corso lo dovevano fare a Sassari. Pensa se non lo fanno questo corso qua. Quest'anno la Tari non ce n'è da nessuna parte. Forse mi ha parlato Castonio che lo devono fare ad Alghero. Ad Alghero, ho detto, interessati, se no ho detto, io la sera sono in corso, diciamo, se lo fanno anche in insomma di Cagliari, a chiedere insomma di Cagliari, e quando viaggeremo questi giorni, e non mai questo quello elettorale, perché vogliono un attestato di frequenza del percorso, magari, se no non possono fare esame. Hai capito? Io sono disposto a accompagnare lì, però non mi frega farmi tutti questi giri a vedere le cose, io sono una persona magari, che ho esperienze, che ho cose, che nessuno è nato imparato, però diciamo un'esperienza può dire molto. Beh, è logico, Gianni. Vabbè, se sei a casa al limite ci faccio un salto, così ti porto quella storia là di porto. Tanto per uscire un po' che mi faccio un giro. Se sei a casa venga a trovarti, così ti faccio pure, e così do un'occhiata a quell'acquario a vedere se i pesci come sono, va? Già sono a casa, Natalia, già sono a casa. Ti volevo dire una cosa, ma Claudio non l'hai visto, no? No, negativo, ma c'ho il numero di telefono, non c'è problema, perché già ne parliamo di persona già. E adesso mi resto e sto venendo, là. Già ci sentiamo anche dalla macchina. Se rimani acceso qua, ti chiamo dalla macchina. Ok, è perfettamente, non lascio acceso, non lascio acceso, così diciamo che funziona un po', non lascio acceso, vai. Intanto ci metto poco, un attimo, e mi faccio sentire prima di partire da qui e dopo ci sentiamo in macchina, la sono acceso qua. Va benissimo, Natali. Io rimango in Guerrix. Perché in Guerrix? Perché? Beh, carissimo, Marchetto. Perché in Guerrix? Non ho capito. Con Natalino stavo chiacchierando, no? Perché hai capito, Natalino si sta parlando e niente, non ti sono acceso, non vieni a fare pianto vieni. Ah, sto scherzando, già, e ci mancherebbe altro. Ciao carissimo Natali, ciao. No, vai, fare commissione, non c'è problema, dai. Io qua sto ascoltando ancora per un po', poi anch'io rimango in Guerrix e niente, dai. Ok, no, il mio cielo non sarei proprio perché devo controllare che tu il cellulare non mi abbia chiamato nessuno al piano di sopra, adesso me lo porto qui sopra, forse perché ho cambiato il cellulare, fa come una polleria proprio che bisogna che ce l'hai addosso, adesso me lo farò qui a tu. Ehi, cappa, non c'è problema, dai. Non c'è problema, Gianni. Ok. Vabbè, la Talaus. Ehi, torna a fare un giro, mi. A trovare a Gianni, sto andando, così mi faccio un giretto. Perché non sono uscito da nessuna parte, sono andato solo stamattina, sono uscito 5 minuti, già l'hai visto, ho tirato quella roba e boh. Capito? Gappa, dai. Gappa Rogero, non c'è problema, Natale, dai. Stavo scherzando, poc'anzi. Già ti ho sentito. Va, va a fare dove, Natale, non c'è problema. Tu, Gianca, non puoi camminare manco con si stampella, ragazzi. Tagliannina. Sai cosa ne dai, Giulia? Si sta bella. Se sto sta bella, poi calo. Ah! Non ho capito. Non sei attento, tu. No, io c'è la miseria, che mi so. Mi fa la Recce. Ah, mi c'è la vento? Non vi fai io. L'arem. Ehi, mica quelle sono tutte tantere, mi. Quelle lì che tirano fuori le unghie e sono affari tuoi, ti graffiano tutto, mi. Capri due, gli ho da portare una bionda al figlio per passare la cirurgite, apri macchinetta, Ciao, grazie, ti andrà bene. Ok, ma che venga così, diciamo che sta più intanato, grazie, è sempre in giro quello lì in moto, guarda, una cosa che mi sta facendo disperare, non me ne dà però, non sta riguardato nonostante che c'ha tutti quei disturbi, speriamo bene, sì. Riprendi, grazie. Ehi, ciao! E procuragliela tu, perché lui è furbo, non se la busca, che lo sa che gli tocca rimanere a casa. Invece gliela buschi tu! Ma io, diciamo, no, già va per quello in giro, all'alto PH con la moto, va per quello che non so io, però diciamo che le serate brutte, diciamo, da stare in casa, non andate in giro, perché mi è rimasto intuppato anche la tastiera di acqua. Male, così fa male, cappa, ma però ce lo fa l'onfio, noi la buschi per te e non è per lui, no? E io già ce l'ho di grazia, ed è anche molto più giovane di me, è una decina di anni più giovane, quindi io sono stato fortunato, hai capito, però se va anche dura, tutto quello che arriva è benvenuto, grazie. Già è vero quello, ma non c'è adesso che hai detto così. No, grazie, fare gli auguri a mamma, scelta, che oggi è la festa della mamma. Ah, ehi, Natali, riprendi. Natali. Ma Natali non c'è. Grande, molti passaggi non le cuffie bene, capisco, perché mi devo comprare le cuffie, ce l'ho, però non andare bene. No, io non le sopporto, ce le ho, qualche volta che le uso non le sopporto, quindi ce le ho portate di mano, ma raramente le metto, qualche volta per non disturbare, diciamo, la TV, proprio il paracchino, però c'è una voce molto grossa e quando parlo sembro che sto bisticciando, e niente, quindi faccio a meno anche le cuffie. Non so, mi arrivi perfettamente bene, no? Siccome non giorni che non lo stavo usando l'apparecchio di tanto. Ma cosa la palatera che avrà tutto bene. Ok. Ok, Moisese. Dirò che so. Ok. Lo sai che ho preso quell'antenna tua? Dimmi la marca dell'antenna, tu che c'hai. Aspetta un attimino, la, dove, aspetta un attimino, Sirio, è quell'antenna lì, ma quello non è un'antenna recente, no? No, questa è un'antenna degli anni or sono. Lo sai quanto guadagna quella? Io l'ho vista, adesso non voglio andare a cercare più di 9 decibel. Kappa, è la buona antenna. Ma io il sito ne ho una di paramobile. Sale una buona antenna, so perché è cambiato dal giorno alla notte. La mia adesso è... Oggi mi avevo l'idea di fare il lavoro del palo, ma lo lasciamo un altro giorno. E poi mi ritrovo appena lo stupido delle stazionarie e va alla grande. E non la tocco mai più dopo. Kappa, come stai parlando già? Stavo parlando con Natalino, stavo parlando con Graziano Buffo. Ah, Kappa, allora ve la diciamo a Grazianito? Già. Graziano, lascia il caffè, Graziano. No, parte no, sto facendo un calcolo qua. 25 la persona, quante persone sono? 25 la testa. E per che cosa? È uno spuntino. Oh, spuntino. aspetti, bene, bene. Ma non senti, 25 ore a testa, giovani, si compagno, non si può dal cazzo. Quanto faccio qua c'è te, lo consiglio? Per quante persone, dimmi. 20 persone, 25 euro a persona. Quindi faccio 500 euro. Cara gara, io, ascolta, me lo segno, che devo controllare quanto ce ne sono ancora. Ma cos'è un matrimonio, eh? È una spicciola. Ai, ai, ai, ai, già, hai capito? Chi più ne ha bene vetta? Sapete che devo appena spostare la macchina, guarda, ma è una cosa incredibile. Adesso perché questo qui c'ha più una macchina in mezzo, io devo spostare la mia a far uscire, non lo so perché parcheggiano. Io non chiudo a questo la macchina tra la mia e guarda che ce n'è dietro, guarda, una cosa incredibile, riprendi un po' un attimo, guarda. Cappa Gianna, non c'è problema, cappa di roccia. E tanno, grazie a lì, ciao Luca, ben sentito. Io vado, uscirò, sentiamo dopo, Gabal, ciao a tutti Gabal. Cappa Gappa, riprendi, grazie. È un agriturismo, non è molto, no, ha perso la 25 euro, vedi tutto, attipato, due primi, secondi, tre o quattro, già ce n'è roba, non è molto. Non è molto, no, deve essere un non è molto, potrei dire che non è molto, perché... Niente, dai, per esserci tanta di quella roba non è molto 25 euro a persona, eh? Poi all'agriturismo mangi il bimbetto al ristorante, che poi ne fanno sempre di sopraffiulli. Kappa, bene, effetti già, si conferma. Già, riprendi che qui devo controllare i numeri. Cava. Cava di roccia. Grazie, ma già ce l'ha la frutta per ammaestrarle tutte quelle pantere già. Sì. Ehi. Hai sentito il rattarino? No. Ha detto se ce l'hai la frusta per domare tutte quelle pantere. Ehi, già faccio l'uribu. Rattaritisla. Alla Gintisu. Digli che sono in macchina, forse per quello che non mi ha sentito, Kappa, no, la periodo MBM, forse per quello che non hai sentito, grazie. No, ho sentito, però non capisco molte parole perché qua stavo parlando, non sento. Kappa, adesso già ti copia la tele, però ci sono un sacco di leonese, ti sente poco, là. Allora, dimmi di fare schioccare la frusta, gatta, almeno si fanno zitte. Capito la grazia. Ma io che ho fatto effetto la frusta, no che ti sulpani. Un gallo dal pollaio. E tu per la nuda. Stavo dicendo, Natali? Arrivo Graziano, la truppa era nuda, e cioè non è nuda a me, è una truppa. Cavagava, e te se la grazia? Allora io, per un attimo, faccio l'are, io che sono il galletto, in mezzo al pollaio. E ci sono tutte le puttette lì, così è. Allora, le cucobine, come ti dici, le cucobine? Chiama le puttette. E allora, tutti i marini, i rui, i gialli, i neri, tutti i caritati. Tutti colorati, so. Allora, aspetta, riprendi il caffè che ti sto segnando. Tutte le palazzole le sta segnando mio. Ora da lì. Allora, ma cosa ha solo i suoi, compreso? L'unico gallo nel pollaio, giustamente, devi contare. Allora, deve sapere tutte le puttette di chi sono. Ha detto che le galline che lo fanno l'uomo li tira il collo. Marco, mezzo te la ricomprovava, le pigliava a lavora e un pollaio e si entrava a rugito. Chissà no, si e li tirava a rugito. Dai, dai, dai. Sì, già la gentile via. Ah, non ci funzionava, grazie. Sì, ma di lui c'è se cava più ruccio. Una scena, grazie. Ci sono a quando scendere giù. Dai, guardate, una parte via. caso. Ma ragazzo, guarda se vedi a compiere, buttacelo dalla finestra. Stamattina ero vicino a casa sua, NC2, tu sei così, vattene la sotto qui. Si ne è avvisato che ero sotto. Oh, ui. Aspetta, sto facendo cosa, riprendo subito. Attento che non ti graffiano gli sputezzi, mi ti graffiano di tutto. Ma che fatto lui? chiamato perché gli piace un amico di Manuela e vuole che si fila a tutti i gusti. Perché ha detto che quello là se lo muovo gli ha rotto. E lì poi ha cambiato, era sorridente, l'hai visto? E passato tutto a buio. Sembra mezzo bucalotto, mi sembra. Come i bambini, ci tocco le lacrime agli occhi. Chi è sto bastardo che sta mettendo la porta? Ma, mi pare sano. Attention, my friend, si ascolti Italy from Sardinia. Ciao. quant'altro. Cosa tu? So che era meglio un buono, cioè, la porta era un po' così, ma il tiramo su era buono. Sì, la torta non l'ha fatta lì, la torta l'ha fatta la mica. Ma c'è la resuscità dei morti. Quella che ha fatto il tiramisù. Avanti, è la voce di donna. Non ti nascondere. Faceva nella città dei morti. Me lo fa sapere dito dopo che è finito. La crema. Ho fatto finta di buttare la cinaccia e c'è quasi giusto che c'è dito la crema che la avanza. Ha detto se non ce lo mangiamo che ti accendi lì, alla volta siamo uscendo, quindi non penso se lo mangi nessuno. Ti faccio soffrire, ci la fa sé. Immaginati il sapore, cosa lo metti in bocca che ti riempie la bocca. Ma chi sa, Ma il video era un viaggiatore di Lucania, che non era, che c'era, se non so che poteva essere. Ciao.